Capitolo 3. Il selvaggio in casa del bianco. Un anno le grandi piogge non vennero. È un'esperienza tremenda, spaventosa. Il coltivatore che l'ha vissuta non la dimentica. Dopo anni lontano dall'Africa, nel clima umido dei paesi del nord, al rumore di uno scroscio improvviso di pioggia, la notte a un soprassalto improvviso, l'impulso di gridare: finalmente, finalmente! Di solito le grandi piogge cominciavano l'ultima settimana di marzo e continuavano per tutta la prima metà di giugno. Fino ad allora il mondo diventava ogni giorno più caldo ed arso che in Europa, quando sta per scoppiare un temporale. Dall'altra parte del fiume, in quel periodo, i miei vicini, i Masai, davano fuoco alle pianure aride come scorze secche per poter avere erba nuova e fresca nei pascoli alle prime piogge. L'aria danzava alla potente conflagrazione. Il fumo avanzava sull'erba in lunghi strati grigi che prendevano i colori dell'arcobaleno. Sui campi giungevano il caldo e l'odore di bruciato come da una fornace. Nubi gigantesche si addensavano per poi dissolversi. Un acquazzone lontano tracciava all'orizzonte una striscia obliqua di azzurro. Il mondo non pensava che a una sola cosa. Poi, un pomeriggio, proprio prima del tramonto, pareva che il paesaggio ci si stringesse intorno. Le colline si avvicinavano, vigorose e piene di significato col loro verde e il loro azzurro limpido e penetrante. 2 ore dopo, uscendo, si scopriva che le stelle erano scomparse e l'aria della notte, morbida e fonda, era gravida di benessere. Il rombo precipitoso che cresceva rapidamente lassù, sopra le nostre teste, era il vento fra gli alti alberi della foresta e non la pioggia. Quello che correva strisciando lungo la terra era il vento fra gli arbusti e l'erba folta e non la pioggia. Quello che frusciava e tambureggiava contro la terra era il vento nei campi di mais. Allora somigliava talmente alla pioggia che ogni volta ci si lasciava ingannare, quasi con gioia, come quando inizia finalmente la rappresentazione di un dramma che da molto tempo volevamo vedere recitato. E non la pioggia. Ma quando la terra rispondeva con un ruggito fertile e profondo, come una cassa armonica, e il mondo cantava intorno a noi in tutte le sue dimensioni, in alto e in basso, quella era la pioggia. Era come tornare al mare dopo tanto tempo, come l'abbraccio di un amante. Un anno le grandi piogge non vennero. Fu allora come se l'universo ci avesse voltato le spalle. Faceva fresco, a volte anche freddo, eppure non c'era traccia di umidità nell'atmosfera. Tutto diventava sempre più secco e duro. Pareva che ogni forza e grazia si fosse ritirata dal mondo. Non era bel tempo o cattivo tempo, ma una negazione del tempo, un rinvio del tempo, sine die. Un vento squallido, quasi una corrente di aria, vagava sopra di noi. I colori svanivano da tutte le cose. Gli odori abbandonavano i campi e le foreste. Si aveva la sensazione, come opprimente, di aver perso la protezione delle grandi forze della natura. A sud le pianure erano deserte e nere, con strisce di cenere grigie e bianche. Giorno per giorno, mentre aspettavamo inutilmente la pioggia, progetti e speranze della fattoria si annebbiavano e sparivano. Tutta la fatica degli ultimi mesi. La rattura, la potatura, la semina, divenne una fatica da sciocchi. Il lavoro cominciò ad andare sempre più lento finché si arrestò del tutto. Nella pianura e sulle colline i pozzi si disseccarono. Anatre e oche selvatiche di specie mai viste fino ad allora venivano ad abbeverarsi al mio stagno. La mattina presto e poco prima del tramonto arrivavano anche le zebre, fino a 200-300 in lunghe file, i piccoli accanto alle madri. Se andando a cavallo finivo in mezzo al loro branco, non si spaventavano, ma dovevamo cercare di tenerle lontane perché anche da noi l'acqua cominciava a scarseggiare. Malgrado tutto, lo stagno era ancora bello. I giunchi che crescevano nel fango creavano un'oasi di verde nel paesaggio brunastro. Con la siccità gli indigeni divennero silenziosi. Avrei voluto sapere cosa ne pensavano, cosa, secondo loro, dovevamo aspettarci, ma non riuscivo a farli parlare. Eppure conoscevano certo meglio di me il tempo ed i suoi segni. Era in gioco la loro stessa esistenza. Per loro non sarebbe stata una cosa inaudita, come non lo era stata per i loro padri, perdere il 90% delle greggi nei grandi anni di siccità. Nelle shambas riarse spuntavano ciuffi radi di patate dolci e di mais, tutti curvi e vizi. Accettai la loro lezione, smisi di parlare e di lamentarmi dei momenti difficili come una persona colpita dalla sventura, ma restavo pur sempre un'europea. E non avevo vissuto lì abbastanza a lungo per possedere l'assoluta passività degli indigeni, acquistata da certi europei che si trovavano in Africa da decenni. Ero giovane, avevo bisogno di concentrare le mie energie su qualcosa per istinto di conservazione, se non volevo essere spazzata via insieme alla polvere delle strade e al fumo della pianura. Cominciai la sera a scrivere racconti, fiabe e novelle per non pensare più ai miei guai, ma spaziare con la mente in altri paesi e in altri tempi. Ne avevo raccontata qualcuna a un amico che veniva a trovarmi alla fattoria. Quando mi alzavo e uscivo, fuori soffiava un vento crudele. Nel cielo limpido milioni di stelle splendevano severe, tutto era arso. Da principio scrivevo di sera, ma poi cominciai a scrivere anche la mattina invece di andare nei campi come avrei dovuto. Era troppo difficile là fuori decidere se bisognava arare e seminare di nuovo il mais o se per non far morire le piante di caffè era bene ripulirle di tutte le bacche vizze. Rimandavo le decisioni di giorno in giorno. Scrivevo in sala da pranzo col tavolo tutto coperto di carte perché spesso dovevo interrompermi per compilare conti e preventivi o per rispondere ai bigliettini desolati del mio fattore. I servi mi domandavano cosa stessi facendo, sapendo che cercavo di scrivere un libro. Lo credettero un ultimo tentativo per salvare la fattoria in quei momenti duri e ci si appassionarono. Più tardi mi chiesero come stesse procedendo il libro. Venivano nella stanza e vi restavano a lungo per osservare i miei progressi. Il loro viso colore del legno la sera si confondeva con le pareti, parevano nient'altro che delle vesti, tutte bianche, appoggiate lì al muro per tenermi compagnia. La mia stanza da pranzo, posta a occidente, aveva lunghe finestre che guardavano verso la terrazza, il prato e la foresta. Il terreno scendeva declinando fino al fiume che segnava il confine fra la fattoria e i Masai. Il fiume non si vedeva, ma si poteva seguire il suo corso serpeggiante dal disegno delle grandi acace verde cupo che lo costeggiavano. Dall'altro lato il terreno boscoso era di nuovo in salita. Oltre i boschi cominciavano le pianure verdi che arrivavano ai piedi del Ngong. Se la mia fede fosse abbastanza forte da muovere le montagne, questa è la montagna che farei venire da me. Il vento veniva da levante e la mia stanza da pranzo era riparata. Tenevo tutto il giorno le porte aperte, ragion per la quale la parte occidentale della casa era particolarmente simpatica agli indigeni. Ci passavano sempre davanti per restare in contatto con la vita che vi si svolgeva. Per il medesimo motivo i pastorelli portavano là intorno le loro capre, lasciandole pascolare sul prato. Quei bambini, sempre in giro per la fattoria in cerca di un pascolo per le greggi, erano in qualche modo il legame fra la vita della mia casa civilizzata e la vita selvatica di fuori. I miei domestici si fidavano poco e preferivano non vederli per casa, ma l'amore e l'entusiasmo dei pastorelli per la civiltà erano troppo forti. Per essi non rappresentava un pericolo perché potevano staccarsene quando volevano. Il simbolo principale ai loro occhi era un vecchio orologio a cucù tedesco appeso al muro in stanza da pranzo. Un orologio diventa un oggetto di puro lusso sugli altipiani dell'Africa. Bastava la posizione del sole per sapere l'ora, in tutte le stagioni. D'altronde, poiché non c'era questione di treni e si poteva organizzare la propria vita come si voleva, finiva per avere poca importanza. Quell'orologio però era proprio bello. Ogni ora il cucù spalancava la porticina, circondata da un'aureola di rose rosse, lanciandosi avanti per dare l'annuncio con la sua voce chiara e insolente. La sua apparizione era ogni volta un piacere nuovo per i bambini della fattoria. Quando dalla posizione del sole vedevano che mancava un quarto a mezzogiorno, cominciavano ad avvicinarsi alla casa. Venivano da tutte le parti, spingendo innanzi le greggi per non abbandonarle sole. Le loro teste spuntavano insieme a quelle delle capre fra i cespugli e l'erba alta, come rane che nuotano in uno stagno. Lasciate le bestie sul prato, entravano nella stanza senza far rumore, a piedi nudi. Ce n'erano di tutte le età, dai 2 ai 10 anni. Si comportavano benissimo, osservando una specie di cerimoniale di loro invenzione che si riduceva a questo. Potevano andare dove volevano, ma non dovevano toccare nulla, non si dovevano mettere a sedere e non dovevano aprir bocca se non venivano interrogati. Quando il cucù si scagliava verso di loro, una grande ondata di estasi e di risate represse li percorreva. A volte qualcuno dei più piccoli, dimentico dei suoi doveri, arrivava di mattina presto, solo soletto, contemplava a lungo l'orologio ora chiuso e silenzioso, rivolgendogli una cantilena monotona, una specie di dichiarazione d'amore in kikuyu, per poi riandarsene con aria solenne. I miei domestici li prendevano in giro. Quei pastorelli erano talmente ignoranti. Mi confidavano da credere che il cucù fosse vivo. Adesso però era loro che venivano a spiare la macchina da scrivere. A volte la sera Camante restava là, appoggiato al muro per più di un'ora, e i suoi occhi sotto le sopracciglia si muovevano avanti e indietro come delle gocce scure. Pareva volesse studiarne il meccanismo fino in fondo per poterla smontare e rimontare completamente. Una sera, alzando gli occhi, incontrai il suo sguardo attento. «Nsabu», mi chiese dopo un istante, «credi davvero di poter scrivere un libro?» Risposi che non lo sapevo. Per capire cosa fosse una conversazione con Camante, bisogna sapere che prima di ogni frase faceva una lunghissima pausa, gravida di profonda responsabilità. Tutti gli indigeni sono maestri nell'arte della pausa, con cui creano nella discussione il senso della prospettiva. Camante fece una lunga pausa, poi disse: «Io credo di no». Era il solo essere umano con cui potessi discutere del mio libro. Smisi di scrivere e gli chiesi perché. Scoprì ora che aveva meditato su quella conversazione e aveva la risposta già preparata. Tirò fuori da dietro la schiena il volume dell'Odissea e lo posò sul tavolo. «Guarda, Nsabu», disse, «questo è un buon libro. È tutto intero, dal principio alla fine. Anche se lo si alza e lo si scuote forte, non si disfa. L'uomo che l'ha scritto è molto intelligente. Ma quello che scrivi tu», proseguì con disprezzo e allo stesso tempo con una specie di compassione amichevole, «è un po' qua e un po' là. Se ci si dimentica di chiudere la porta, vola via, magari per terra e tu ti arrabbi. Non sarà un buon libro». Gli spiegai che in Europa avrebbero saputo metterlo tutto insieme. «Allora il tuo libro sarà pesante come questo?» chiese lui soppesando l'Odissea. Quando vide che esitavo, me lo porse perché potessi giudicare io stessa. «No», dissi, «non sarà pesante come questo, ma ci sono anche altri libri nella biblioteca che sono più leggeri». «Duro come questo?» chiese. Dissi che fare un libro duro come quello costava caro. Rimase un po' in silenzio, poi, per farmi capire che aveva maggiori speranze per il frutto della mia fatica e forse anche che si pentiva dei suoi dubbi, si chinò a raccattare le pagine sparse sul pavimento e le rimise sul tavolo. Ma ancora non si decideva ad andarsene, restava lì in attesa. Alla fine mi chiese con aria grave: «Msabu, cosa c'è nei libri?» Per dargli un esempio, gli raccontai la storia di Ulisse e Polifemo, di come Ulisse aveva detto di chiamarsi Nessuno e come, accecato Polifemo, era fuggito nascondendosi sotto la pancia di un montone. Camante ascoltava con grande interesse. Il montone, osservò, doveva essere della stessa razza delle pecore del signor Long di Elmentaita, che aveva visto ad una fiera del bestiame a Nairobi. Poi, tornando a Polifemo, mi chiese se fosse nero come i kikuyu. Quando gli risposi di no, volle sapere se Ulisse era della mia famiglia o della mia tribù. «Come si diceva nessuno nella sua lingua?» chiese. «Utisse», risposi. «Disse di chiamarsi Utisse, che nella sua lingua significa nessuno». «Tu devi scrivere della stessa cosa?» «No, ognuno può scrivere quello che vuole. Io potrei scrivere anche su di te». Camante, che nel corso della conversazione si era abbandonato, a questo punto improvvisamente si chiuse in se stesso, si guardò addosso e mi chiese a bassa voce su quale parte di lui avrei scritto. «Potrei scrivere di quando eri malato e facevi pascolare le pecore sulla pianura», dissi. «A che cosa pensavi allora?» Girò lo sguardo per la stanza, poi rispose in modo vago: Sei giù? Non lo so. Avevi paura? Gli chiesi. Sì, dichiarò con fermezza dopo una pausa. Tutti i bambini hanno paura a volte sulla pianura. Di cosa avevi paura? Camante rimase un po' in silenzio, lo sguardo concentrato e profondo, come se scrutasse dentro se stesso. Poi mi guardò con una piccola smorfia. Di Utis, disse. I bambini hanno paura di Utis sulla pianura. Qualche giorno dopo lo sentii spiegare agli altri ragazzi che il mio libro poteva essere messo tutto insieme in Europa e se spendevo un mucchio di soldi poteva anche diventare duro come l'Odissea, in quell'occasione esibita di nuovo. Lui però non credeva che potesse diventare azzurro. Camante aveva un talento speciale tutto suo che gli fu utile quando viveva alla fattoria. Poteva piangere quando voleva. Se lo rimproveravo seriamente, mi restava davanti impalato, guardandomi con la tristezza profonda, vigile, che può invadere in certi particolari momenti il viso degli indigeni. Gli occhi gli si empivano di grosse lacrime che pian piano ad una gli colavano giù per le guance. Sapevo che erano lacrime di coccodrillo e non mi avrebbero fatto nessun effetto se non si fosse trattato di lui. Ma con Camante era diverso, il suo viso piatto, di legno. Si rituffava allora nel buio e nella solitudine in cui era rimasto per tanti anni. Da bambino, in mezzo al suo gregge sulla pianura, aveva forse pianto lacrime così mute e dolorose. Mi dava un senso di pena e di disagio, e la mancanza per cui l'avevo rimproverato mi pareva improvvisamente una cosa da nulla, una sciocchezza, e preferivo non parlarne più. In un certo senso era scoraggiante, ma forse, con la vera comprensione umana che ci legava, Camante sapeva in cuor suo che non mi lasciavo ingannare dalle sue lacrime di contrizione. In realtà lui stesso le considerava più un'offerta rituale alle potenze superne che un tentativo di ingannarmi. Parlando di se stesso, ripeteva spesso di essere cristiano. Era difficile capire cosa significasse precisamente per lui. Due o tre volte cercai di catechizzarlo, ma rispondeva sempre che credeva nelle stesse cose in cui credevo io e che era assurdo fargli delle domande perché dovevo sapere da me le risposte. Evidentemente non rappresentava un modo di evadere, ma piuttosto il suo programma positivo o la sua professione di fede. Aveva abbracciato il Dio dei bianchi. Al suo servizio era pronto ad obbedire a qualsiasi comando, ma non a prendersi la briga di spiegare un sistema plausibile che poteva poi, come tutti gli altri sistemi plausibili dei bianchi, risultare irragionevole. Se per caso però il mio modo di agire gli pareva in contrasto con quanto gli avevano insegnato alla missione scozzese, voleva sapere chi aveva torto e chi ragione. In un mondo primitivo ci si aspetterebbe di trovare oscuri tabù e si resta sorpresi dalla mancanza di pregiudizi degli indigeni. Ma essa dipende, credo, dai contatti con tante diverse razze e tribù e dai vitali rapporti umani creati nell'Africa orientale, prima dai trafficanti di schiavi e di avorio e poi dai coloni e dalle spedizioni di caccia grossa. Ogni indigeno, si può dire, compreso il piccolo pastore delle pianure, si è trovato di fronte nella sua vita a tanti popoli diversi l'uno dall'altro e da lui stesso, come un siciliano da un eschimese. Inglesi, ebrei, boeri, arabi, somali, indiani, swahili, masai e cavi rondo. Per la capacità di assimilare le idee, l'indigeno è uomo del mondo più del colono e del missionario cresciuto in provincia o in periferia. In un ambiente compatto e con idee ben stabilite. Molti dei malintesi fra i bianchi e gli indigeni nascono proprio da questo. Sentire che noi, con la nostra persona, rappresentiamo agli occhi degli indigeni il cristianesimo, incute un certo senso di paura. Una volta venne a lavorare da me un giovane Kikuyu della riserva, Kitau. Era un ragazzo riflessivo, attento, preciso in tutte le faccende, gli volevo molto bene. Dopo 3 mesi mi chiese una lettera di raccomandazione per il mio vecchio amico sceicco Ali bin Salim, il Lewali della Costa a Mombasa. Kitau lo aveva visto in casa mia e ora disse voleva andare a lavorare da lui. L'idea che se ne andasse quando aveva appena imparato le abitudini della casa non mi andava giù. Perché restasse ero disposta anche ad aumentargli la paga. No, rispose, non si trattava della paga. Alla riserva, mi spiegò, aveva deciso di diventare o cristiano o maomettano, solo non sapeva ancora bene quale dei due. Per questo era venuto a lavorare da me, una cristiana. Ed era rimasto 3 mesi in casa mia per vedere la testurd, gli usi e i costumi dei cristiani. Dopo sarebbe andato dallo sceicco Ali a Mombasa a studiare la testurd dei maomettani e alla fine avrebbe preso la sua decisione. Anche un vescovo, credo, saputo come stavano le cose, avrebbe detto, o almeno pensato come me, Santo cielo, Kitao, potevi dirmelo subito. I maomettani mangiano solo carne di animali sgozzati da un maomettano, secondo la regola ortodossa. Ciò crea spesso parecchie difficoltà durante i safari, dove si portano poche provviste e in genere si vive tutti quanti di quello che si caccia. Quando si riesce a colpire un congoni e il congoni cade, i maomettani si precipitano a sgozzarlo prima che muoia, mentre gli altri seguono ogni loro mossa con gli occhi lucidi, tutti tesi. Se rimangono lì fermi a guardare le braccia e la testa ciondoloni, vuol dire che il congoni è morto prima che siano riusciti ad acchiapparlo. E se ne deve prendere un altro se non si vuole che i portatori muoiano di fame. Una volta, al principio della guerra, dovevo mettermi in viaggio coi carri per una spedizione. La sera prima di partire, incontrando per caso il governatore maomettano Kijabe, gli chiesi se non poteva dispensare dalla regola i miei uomini per tutta la durata del safari. Il governatore, giovane ma pieno di buon senso, consultatosi con Farah e Ismail, dichiarò ai suoi correligionari: «Questa signora è una discepola di Gesù Cristo. Prima di sparare dirà, almeno in cuor suo, in nome di Dio. Dopodiché i suoi proiettili saranno come il coltello del maomettano osservante». Per tutta la durata di questo viaggio, quindi, potrete mangiare senza rimorsi la carne degli animali che uccide. Il prestigio della religione cristiana in Africa era indebolito dall'intolleranza reciproca delle varie chiese. La notte di Natale, quando ero là, mi recavo sempre alla missione francese per sentire la messa di mezzanotte. In genere faceva caldo in quella stagione. Traversando in macchina i boschi di acace, si sentiva echeggiare nell'aria limpida il suono prolungato della campana della missione. Là intorno una folla gaia ed animata era in attesa. I bottegai francesi e italiani di Nairobi erano arrivati con le loro famiglie, le monache della scuola del convento, gli indigeni della congregazione che sciamavano qua e là coi loro vestiti chiassosi, centinaia di candele e grandi schermi di tela con delle pitture e una luce dietro, fatti dai padri stessi, illuminavano la bella e vasta chiesa. Il primo anno che Camante passò in casa mia, quando giunse Natale, gli dissi che, essendo ormai anch'egli un cristiano, lo avrei condotto a messa. Con uno stile degno degli stessi padri, gli descrissi la cerimonia stupenda a cui avrebbe assistito. Emozionato, commosso nel più profondo del cuore, Camante per l'occasione indossò i suoi abiti migliori. Ma quando la macchina era già alla porta, tornò indietro agitatissimo. Non poteva assolutamente venire, disse. Non voleva spiegarmi perché, rispondeva in modo evasivo alle mie domande. Alla fine però riuscì a fargli confessare la verità. No, non poteva venire. All'ultimo momento si era reso conto che lo volevo portare alla missione francese, mentre all'ospedale gli avevano detto che da quel luogo si doveva guardare. Cercai di spiegargli che era tutto un equivoco e che doveva assolutamente venire. Vedendomi così decisa, impietrì, divenne pallido come un morto, mostrò il bianco degli occhi, si coprì di sudore. «No, no, Msabu», mormorò, «non vengo. Dentro quella grande chiesa, lo so bene, c'è una Msabu che è Mbaya Sana, è terribilmente cattiva». Al sentir questo mi rattristai profondamente. Ora dovevo portarlo con me a tutti i costi perché la Madonna lo illuminasse. In chiesa c'era una statua della Vergine di cartapesta, di dimensioni naturali, tutta bianca e azzurra. Le statue di solito fanno grande impressione agli indigeni, che invece arrivano con difficoltà a concepire l'idea di un quadro. Costrinsi Camante ad accompagnarmi, promettendogli di proteggerlo. Quando, sempre attaccato pavidamente alle mie sottane, entrò in chiesa, dimenticò tutti i suoi scrupoli. Per un caso fortunato fu la più bella messa di Natale che si fosse mai svolta alla missione. C'era un presepio enorme, Una grotta con la Sacra Famiglia, appena arrivata da Parigi, illuminata da stelle radiose in un bel cielo azzurro e circondata da un centinaio di animali in miniatura, mucche di legno e agnelli di lana immacolata, senza nessun calcolo meschino di proporzioni, che probabilmente mandava in estasi i cuori dei Kikuyu.